Ma che succede? È la stampa, bellezza, la stampa. La rassegna stampa di Radio 24, a cura di Bruno Perini. E tu non ci puoi far niente, niente. Addio al Berlusconi moderato, vuol diventare re del suo popolo. Eversione? Non lo è, ma elimina di fatto i partiti dalla scena. Dagli studi di Radio 24 un saluto da Bruno Perini, in regia con noi Carmelo Lauricella. Ecco, dopo il no di Umberto Bossi al presidenzialismo di Berlusconi, arriva il no di Ferdinando Casini in un'intervista al Corriere della Sera. Sabato sera, dopo la conferenza stampa, il Presidente del Consiglio ha preferito non reagire a caldo. Si è preso del tempo per riflettere sul lungo sermone di fine anno pronunciato da Silvio Berlusconi sulla proposta sorpresa del presidenzialismo. Ma ora Pier Ferdinando Casini e tutto è chiaro, lampante, altro che sorprese, il suo è un discorso coerente, molto coerente, vuole eliminare tutto ciò che è d'impiccio nel rapporto tra lui e il popolo e così facendo trasformare completamente il quadro politico. È quasi un grido d'allarme quello del leader DC, vuol mettere da parte i partiti per il suo progetto plebiscitario. Beh, parole diciamo belle pesanti, insomma, dette da un ex alleato, un progetto dal quale Casini prende nettamente le distanze, anche se fa notare che è solo la logica conseguenza di un discorso avviato un anno fa. La nuova proposta è in realtà il compimento della svolta del predellino quando annunciò un nuovo partito mentre il dibattito nel centrodestra stava salendo di intensità. Anche questa volta in effetti ha fatto l'annuncio più importante solo alla fine, rispondendo all'ultima domanda della conferenza stampa, osserva Roberto Zuccolini, che è il giornalista del Corriere della Sera che intervista Pier Ferdinando Casini. Così è l'uomo, risponde Casini. Certo, ci sono state anche le stagioni del Berlusconi moderato, quasi il continuatore della DC, ma noi che lo conosciamo bene abbiamo capito da tempo che c'è una differenza tra ciò che diceva e ciò che realmente pensava. E che ieri ha cominciato a dire apertamente, cioè ci dice Casini, in realtà quello che pensa realmente Silvio Berlusconi è che sia la strada del presidenzialismo sia quella da perseguire fino in fondo, e anche perché nell'immaginario che il presidente sarebbe lui poi. Cioè è ormai evidente che Berlusconi non si accontenta più di avere una maggioranza schiacciante in Parlamento, dice ancora Casini. Pensiamo solo ai continui voti di fiducia. Nei passati governi ogni volta che li si chiedeva ci si sentiva il dovere di giustificarli per non essere sottoposti alle critiche. Ora invece Berlusconi se ne vanta e ancora sostiene che è costretto a ricorrere a quel tipo di strumento perché il Presidente del Consiglio in Italia non ha poteri adatti a governare, dice Roberto Zuccolini interpretando Berlusconi. Non prendiamoci in giro, se nel nostro paese siamo inefficaci è perché la politica è inefficace. Ripete che ovunque in Europa il Premier ha poteri più forti, lasci stare l'alibi dell'Europa. Il presidenzialismo che propone con l'elezione diretta porterebbe a una desertificazione della politica in Italia. Un'operazione eversiva? Non è certo eversione, ma è senza dubbio una trasformazione radicale del sistema che ci ha governato per 60 anni, perché porta all'eliminazione di fatto dei partiti per privilegiare l'unico rapporto che per Berlusconi conta, cioè quello del re con il suo popolo. Certo, non gli si potrebbe dare del tiranno in quanto eletto dalla maggioranza dei cittadini, ma ogni contrappeso sarebbe eliminato. C'è coerenza nel suo progetto, un bipartitismo solo di facciata perché ha l'obiettivo di blindare il rapporto tra il leader e il suo popolo. Ecco, questo davvero durissima reazione. Quindi Pier Ferdinando Casini, durissima nella sostanza, al progetto presidenzialista di Silvio Berlusconi annunciato nel finale di conferenza stampa di fine anno. Quindi dicevo, non c'è solo Bossi che dice alto là al premere sul presidenzialismo, ma c'è anche uno degli esponenti dell'opposizione. Altri esponenti dell'opposizione hanno poi, come dire, commentato, il PD ha commentato la presa di posizione di di Silvio Berlusconi dicendo vuole nascondere i problemi reali che sono quelli dell'economia, però non ha, come vedremo, commentato nel merito così criticamente come ha fatto Casini. Il Corriere della Sera poi invece riporta un servizio di Virginia Piccolillo a proposito delle intercettazioni e il titolo di prima pagina è Limiti ai PM, i dubbi di Alleanza Nazionale, intercettazioni, la Buongiorno guida la rivolta. E vediamo un po' che cosa dice il Corriere della Sera a pagina 8 a questo proposito. Cautela o aperta ostilità? Non piace in AN l'idea del Premier Silvio Berlusconi di vietare le intercettazioni dei reati della pubblica amministrazione. Si attende un chiarimento in una serie di incontri che si terranno prima di Capodanno, il primo forse oggi stesso tra i ministri di giustizia, interno e difesa. Il forzista Alfano, il leghista Maroni e per AN la Russa. Ma la linea comune di AN è tracciata sì a ridurre le intercettazioni sui giornali, ma non nei processi. Ecco perché il tema forte è appunto se limitare o no le intercettazioni ai reati gravissimi di terrorismo e di mafia e lasciare magari invece e vietare magari invece le intercettazioni per esempio nei reati della pubblica amministrazione, cioè i reati di corruzione per esempio. E questo naturalmente è il punto di discussione. Dice Giulia Buongiorno, penalista, presidente della Commissione Giustizia alla Camera e esponente di AN, dice sono stragarantista, ma cancellare le intercettazioni può significare garantire a corrotti e corruttori l'impunità. Se non si deve nemmeno più alzare per consumare un reato, sei oggettivamente agevolato nel commetterlo e non si può colorare di consuetudine un reato a giustificarlo dicendo che ormai è prassi. Il precedente qui non giustifica, allarma. In più il limite è elusibile dal magistrato che può direttamente ipotizzare un reato più grave. Gli eccessi vanno richiamati, ma dal CSM. E quindi, insomma, ecco, questo è uno dei temi forti, vi dicevo, del sul Corriere della Sera, perché sottolinea un punto centrale. E poi il Corriere della Sera, prima di abbandonarlo, voglio ricordarvi che Francesco Giavazzi sulla prima pagina firma un editoriale in cui nella sostanza dice cancellare le ombre che quali sarebbero le ombre del conflitto tra Mario Draghi, governatore della Banca d'Italia, e il ministro Giulio Tremonti che aveva criticato il Financial Stability Forum e soprattutto aveva detto non avete capito niente della crisi. Ecco, Francesco Giavazzi, sia pure con toni moderati, ribalta e dice il Financial Stability Forum non deve fare e deve solo fare analisi, e le aveva fatte, è il ministro Giulio Tremonti che le aveva viste e non si era allarmato. Insomma, un po' capovolge la critica a Giulio Tremonti e difende il governatore di Banca d'Italia, ma soprattutto Francesco Giavazzi dice bisogna comporre questo scontro perché è uno scontro molto delicato tra due personaggi importanti dell'economia italiana. E se noi vogliamo rimanere però sul tema presidenzialista, possiamo trasferirci sul quotidiano La Repubblica, perché Giuseppe D'Avanzo, cronista e vice direttore però del quotidiano La Repubblica, ci va ancora più pesante a proposito del presidenzialismo, si può immaginare, visto l'opposizione sempre forte che questo quotidiano ha fatto al governo Berlusconi. Dovremmo avere imparato in questi 15 anni che nonostante l'abitudine alla menzogna, Berlusconi non nasconde mai i suoi appetiti. Il sermone di fine anno ci ricorda che la sua bulimia non conosce argini. Questo scrive Giuseppe D'Avanzo sul quotidiano La Repubblica a proposito del presidenzialismo, e dice ancora vuole il presidenzialismo come il compimento della sua biografia personale. Non si accontenta di avere in pugno due poteri su tre. Dopo aver asservito il Parlamento al governo, pretende ora che evapori l'autonomia della magistratura. Dice che la riforma della giustizia è pronta e sarà battezzata al primo Consiglio dei Ministri del 2009. Inoltre, ecco, Il giornalista di Repubblica fa un parallelo molto che farà arrabbiare molto il Presidente del Consiglio. Appena il 4 dicembre il maestro venerabile Licio Gelli della P2, intervistato da Klaus Davi, ha detto: nel mio piano di rinascita prevedevo la creazione di una Repubblica presidenziale perché dà più responsabilità e potere a chi guida il Paese, cosa che nella Repubblica parlamentare manca. Questo è dice Giuseppe D'Avanzo, Licio Gelli. Berlusconi pronuncia quasi le identiche parole. Berlusconi 20 dicembre: sono convinto che il presidenzialismo sia la formula costituzionale che può portare al migliore risultato per il governo del paese. L'architettura attuale non permette di prendere decisioni tempestive e non dà poteri al premier. Questo scrive D'Avanzo e aggiunge una critica ferocissima all'opposizione, perché scrive D'Avanzo: fa venire freddo alle ossa il farfuglio dell'opposizione di fronte a questo funesto programma da realizzare presto, si annotano soltanto parole che dicono d'altro, è un silenzio che lascia temere. O lo stato confusionale di opposizione ormai assuefatta al peggio, o un'altra letale tentazione di quella commedia bicamerale che, senza sfiorare il conflitto di interessi, concesse al mago di Arcole l'impero mediatico e, in nome del primato della politica sulla giustizia, la vendetta sulla magistratura. Ecco, parole altrettanto dure dunque di D'Avanzo nei confronti dell'opposizione e credo in particolare del Partito Democratico. Volevo segnalarvi anche sulla Repubblica rissa sugli asfalti alla partita tra ragazzi, un genitore addirittura minaccia i rivali con la pistola. Beh, siamo ormai a un punto di non ritorno anche nello sport diciamo minore, diciamo più tra i giovani. Ecco, questa scena viene registrata al quotidiano La Repubblica, pagina 18. Anche il quotidiano La Stampa si occupa dell'altolà di Bossi a Berlusconi sul presidenzialismo e va a intervistare il Bruno Tabacci, vicepresidente della Commissione Bilancio della Camera. E sì, anche Tabacci, diciamo, usa prendere distanze da questa cosa, ma aggiunge, è una ipotesi, se il Partito Democratico dice no, Silvio tenterà col referendum, e quindi, diciamo, è un'ipotesi suggestiva politicamente. Certo che è legittimo, dice, a proposito di quello che ha detto Berlusconi, ma sarà consentito combatterla questa ipotesi? Buttarla sul presidenzialismo è un modo per sfuggire dalle difficoltà dell'azione quotidiana di governo, nella quale Berlusconi mostra di non avere senso strategico, e anziché sporcarsi le mani con questi problemi, lui la butta sui poteri presidenziali. Berlusconi, e dice l'intervistatore Fabio Martini, ha collocato in questa legislatura l'eventuale riforma costituzionale. Perché? Perché immagina di poter dare lo sfratto all'attuale Presidente della Repubblica, addirittura, questo dice Bruno Tabacci. Boom! Ma quale boom? L'elezione del prossimo capo dello Stato è prevista nel 2013, dunque nella prossima legislatura, di cui nessuno conosce gli equilibri. Ma con una riforma costituzionale che modificasse prima i poteri del capo dello Stato, l'attuale Presidente della Repubblica sarebbe costretto a dimettersi. Ecco, questa è un'altra ipotesi molto suggestiva che viene sottolineata acutamente da Tabacci. Lei non dà per scontati troppi passaggi, no, e le spiego perché. Come prima cosa Berlusconi proverà a fare un accordo sul semipresidenzialismo con una parte dell'opposizione. Veltroni non ha mai fatto mistero di volere il sindaco d'Italia, ma se il PD si sveglierà e capirà di non poter avere sulla coscienza la nascita della dinastia berlusconiana, la strada è obbligata. Senza una maggioranza parlamentare dei due terzi, la Costituzione prevede il referendum. Se Berlusconi lo vince, l'attuale capo dello Stato dovrà dimettersi. Questo ribadisce ancora una volta Bruno Tabacci nell'intervista a Fabio Martini sulla Stampa. Il quotidiano diretto da Giulio Anselmi affida a Luca Ricolfi invece una diciamo così, una riflessione sull'astensionismo. Elettori in ritirata, scrive Luca Ricolfi. Ormai la tendenza degli italiani è piuttosto chiara. Se domani si tornasse a votare, l'unico partito che potrebbe sfidare il Popolo della Libertà di Berlusconi è il partito del non voto. E già oggi, così in Piemonte, dove un recente sondaggio di Contacta per la stampa ha rivelato che astensionisti e indecisi sono più numerosi di quanti intendono votare il Partito della Libertà. E ancora, aggiunge Ricolfi, è già così in Abruzzo, dove le elezioni regionali hanno consegnato poco meno di 300.000 voti al candidato del centrodestra, mentre gli astensionisti sono stati quasi 600.000. Se queste tendenze dell'opinione pubblica dovessero consolidarsi e l'offerta politica dovesse restare quella di oggi, nel giro di breve tempo potremmo assistere a uno scenario surreale: un partito maggioritario ma privo di rappresentanza parlamentare, costituito dagli italiani che non scelgono alcun partito, un partito sistematicamente vincente, il PDL, che però rappresenta meno del 30% degli italiani, un partito sistematicamente perdente, il Partito Democratico, che rappresenta a stento il 20% degli italiani, e infine un branco di partiti inseguitori e concorrenti, nessuno dei quali capace di rappresentare più del 10% dell'elettorato. Questa, insomma, è la riflessione di Luca Ricolfi. Io voglio anche segnalarvi sul quotidiano La Stampa una invece riflessione ben più ampia di un tema forte, internazionale, mondiale: Pechino e la recessione globale. Enzo Bettiza riflette sui due colossi che sono appunto il drago cinese ai piedi d'argilla, cioè la Cina, e gli Stati Uniti. E scrive Enzo Bettiza: il colosso americano e il drago cinese, sui quali i maggiori esperti tendono a focalizzare l'attenzione in questa disastrosa fine d'anno, sarebbero secondo loro i due bersagli più esposti ai virus della grande crisi innescata dai crolli finanziari del 2008. I termini di paragone, le prognosi analitiche, nonché le drastiche ipotesi terapeutiche sono allarmanti e inquietanti. Quale dei due giganti riuscirà a resistere meglio ai contraccolpi e ad affrontare con più inventiva il fosco futuro? Questo è uno dei quesiti che vengono posti da Enzo Bettiza. La recessione, conclude, con le sue ripercussioni anche sulle aspettative democratiche della Cina, porterà facilmente l'acqua al molino delle fazioni più reazionarie e statolatriche del Partito Comunista. Fino a ieri essi si vantavano di aver favorito, controllando gli eccessi della libertà economica, un innesto ordinato di stimoli capitalisti nel corpo socialista del paese. Domani potrebbero vantarsi di aver rafforzato le virtù endogene del mercato interno all'ombra di un sano nazionalismo. Insomma, la tesi che il drago cinese ha i piedi d'argilla, ma che neppure gli Stati Uniti stanno molto bene. Questo il sul quotidiano La Stampa. Poi c'è una notizia di cronaca: autista alla coca uccide con il bus. L'autista del bus che sabato a Roma ha travolto e ucciso un uomo, aveva fatto uso di cocaina. Alessandro Morini, 29 anni, è stato arrestato con l'accusa di omicidio colposo. Annuncia l'immediato licenziamento dell'autista e controlli a tappeto fra tutti i suoi conducenti. Gino Anselmi, 68 anni, la vittima, aveva appena parcheggiato la sua auto azionando le doppie frecce. Veramente una triste notizia, di un ennesimo fatto di cronaca di questa natura. Ecco, no, volevo ovviamente, ma questo vale sulla stampa, ma vale su tutti gli altri quotidiani, indicarvi la notizia di grande peso: Papa Ratzinger riabilita Galileo, cosa che aveva già fatto Papa Wojtyla. È comunque di grande peso, dice il Papa. Dobbiamo, in realtà, il non era contro la Chiesa, dice Papa Ratzinger di Galileo, ma ci consentì di capire meglio la creatura dell'universo, la creatura divina dell'universo. Quindi questa è la chiave di lettura di Papa Ratzinger, ma comunque rimane una notizia di grande peso, perché il grande scienziato Galileo Galilei è stato anche in questo caso rivalutato. Ora Volevo a questo punto passare al Sole 24 Ore. Il Sole 24 Ore apre invece la prima pagina del giornale con Immobili. Nel 2008 il mercato scende fino al 27%. Beh, una cifra, una percentuale davvero impressionante, se voi immaginate cos'è stato sempre l'evoluzione in crescita del mercato immobiliare. Vuol dire che siamo stati e stiamo vivendo ancora oggi una crisi davvero formidabile, storica forse, del settore. In Italia si comprano e si vendono sempre meno case. Secondo i dati dell'Agenzia del Territorio, nel terzo trimestre il calo dei contratti colpito soprattutto le piccole città di provincia, meno 15,9% di media con punte del 27%, e i centri del nord, meno 16,1% contro il 10,3% del sud. Scendono anche i prezzi degli immobili, ma meno delle compravendite. La frenata del mercato pesa anche sul fisco. Quest'anno sono in bilico 2,5 miliardi di euro di entrate. Questo viene fuori da questa analisi. Vediamo un attimo, perché volevo entrare un po' più nel merito. Il fisco rischia, su base annua, in bilico più del 7% delle entrate da immobili. Ecco, no, c'è una invece riflessione che viene fatta da Gualtiero Tamburini, che dice: come sarà il 2009 per il mattone? In periodi di crisi finanziaria molti considerano l'investimento immobiliare la via migliore per mettere al sicuro i propri risparmi. Chi la pensa così ha buone ragioni per farlo, perché se guardiamo al passato i prezzi delle case, salvo brevi periodi, tendono normalmente a crescere o a calare lievemente. Il numero di compravendite è calato di poco più del 14% dell'anno scorso. I primi segnali di rallentamento furono già visibili nel 2007, come confermano le ultime rivelazioni dell'Agenzia del Territorio. Il dato si ferma a tutto settembre di quest'anno e quindi riflette probabilmente operazioni che in realtà si erano chiuse nei compromessi già qualche tempo prima. Chi la dice, peraltro, l'investitore che si guarda attorno non è che in altri settori come la borsa trovi opportunità decisamente più attraenti e poco rischiose, e quindi una certa domanda è ancora presente, non fosse altro perché è dettata dalla componente precauzionale, ovvero da chi ritiene che l'investimento immobiliare consente comunque di mettere in sicurezza i propri risparmi. Ecco, questo viene detto sul Sole 24 Ore. Con la crisi, meno traffico in autostrada, trasporti a settembre calo del 3%, questo dice: dopo una crisi ininterrotta di decenni, il traffico in autostrada registra la prima diminuzione di sempre. A settembre, con il precipitare della crisi, i chilometri percorsi sono stati il 3% in meno. Beh, questo fa il paio, diciamo, con la crisi, non so se forse c'è un'attinenza, forse credo di sì, con la crisi dell'auto, non solo, come dire, la grande crisi dell'auto degli Stati Uniti, anche la crisi dell'auto in Italia, dicono tutte le stime di questi giorni, e quindi diciamo che questa notizia che leggiamo sul Sole 24 Ore in qualche modo appunto ci spiega uno degli effetti della crisi dell'auto, che non solo probabilmente si compra di meno, ma si usa anche di meno, ci si muove di meno con l'auto, proprio per i costi che questa ha. Ora, il Corriere Economia invece si occupa dei giovani con la valigia, crisi. La scossa dei precari, pronti a partire per cercare lavoro, anche oltre confine. Ecco, e Renato Mannheimer ci spiega: gli italiani di tutte o quasi le categorie e condizioni sociali cominciano a subire la crisi. Grosso modo 3 su 4 dichiarano di averne già risentito gli effetti, ma al tempo stesso tentano di reagire, dicendosi disposti per esempio a lasciare l'Italia pur di lavorare. È questo uno dei risultati più importanti del sondaggio Le strategie degli italiani per affrontare la crisi, fatto da ISPO per Corriere Economia. Ecco, andiamo a vedere bene che cosa ci dice ancora Renato Mannheimer. Gli italiani di tutte... Vediamo, sì. Ad esempio, di fronte alla diffusa convinzione che il posto di lavoro, anche il proprio, specie tra chi è precario, è oggi sempre meno stabile, uno su tre è corso ai ripari e ha iniziato a fare dei corsi di aggiornamento. Un altro 15% intende farlo prossimamente. Nel complesso, metà della popolazione si sta mobilitando per essere professionalmente più competitiva. Non a caso questa scelta è ancora più accentuata e supera il 60% tra chi non ha un lavoro stabile. E si trova in misura più frequente tra i più giovani e coloro che hanno un titolo di studio più elevato. La tendenza ad aggiornarsi riguarda tutte le classi sociali. Ma non ci si limita ad aggiornamento. Molti, più del 40%, ma oltre il 60% tra i precari, hanno cominciato a mandare in giro i propri curriculum e a fare attenzione alle offerte di lavoro potenzialmente interessanti. Insomma, gli italiani non stanno a guardare, sono intimoriti dalla crisi, ma mettono già in atto iniziative e reazioni per fronteggiarla, nella speranza di superarla al più presto. E poi qui c'è invece un'intervista al ministro della gioventù estero, inutile inseguire miraggi, Meloni, anche gli altri paesi avranno i nostri problemi, tuteleremo i più esposti. E subito una rete per i non garantiti, invece propone Ricoletta, crisi e lavoro, i giovani ora fanno la valigia, qui ecco tutta la, ci sono anche delle vignette, tipo hai trovato un lavoro ben pagato in Australia e ti lamenti perché devi alzarti presto, e sì, faccio il pendolare, questo dice questa vignetta. Come risparmiare con la finanziaria, questo è il titolo di apertura del quotidiano Il Giornale. Ecco una guida per utilizzare la manovra economica del governo, i bonus, gli sgravi e le agevolazioni, dagli sconti fino a 630 euro a bambino per chi manda i figli al nido, al credito di favore per i neogenitori. E il quotidiano Il Giornale non apre sul tema del giorno, il presidenzialismo, lo mette diciamo in prima pagina come richiamo, con un tono, una tonalità diversa dagli altri. Bossi frena, ma il PDL lo rassicura, e infatti vi è una pagina intera però presidenzialismo, il PDL rassicura la Lega, Bossi frena sulle elezioni dirette del capo dello Stato, impensabile parlarne ora, prima facciamo il federalismo, questo per le tesi di Bossi, ma gli alleati chiudono la polemica, le ipotesi non sono in contraddizione e il centro-sinistra apre al dialogo, quindi come vedete tonalità diverse da quelle degli altri giornali. Ma quello che è da segnalare invece sul giornale, in coerenza con la, come dire, con le critiche molto pesanti che questo quotidiano sta facendo, la campagna, diciamo, che questa politica, ovviamente, che questo quotidiano sta facendo al Partito Democratico, andiamo a vedere cosa scrive Stefano Lorenzetto, che intervista un imprenditore. Io, imprenditore, vi racconto gli affari del Partito Democratico. Ed è l'imprenditore Giovanni Donigaglia. Qui si vede in una passeggiata con D'Alema, chi è il patriarca di Argenta, come lo chiama il giornale. Giovanni Donigaglia, 68 anni, ex padre padrone della fallita Coop Costruttori di Argenta, diventata prima del ciclone di Mani Pulite il quarto gruppo italiano nel settore. Nel 1993 finisce in carcere per la prima volta su iniziativa del PM Guido Papalia. Poi indagano su di lui Antonio Di Pietro, Pier Camillo Davigo e Carlo Nordio. Ha collezionato 37 processi, due cause sono ancora pendenti, ma nessuna condanna. Oggi denuncia, la nuova tangentopoli del PD è soltanto una conseguenza della logica affaristica immutata nel partito. Ecco, quella, c'è una lunga intervista che inizia così con le parole dell'imprenditore. Il PC non era diverso dalla DC, dal PSI, da tutti i partiti rimasti sotto le macerie di Tangentopoli, e lo stesso vale per il PDS, DS e PD, che ne hanno raccolto l'eredità. Se 15 anni fa il bottegone non fu costretto a chiudere per via giudiziaria, è solo perché poté contare su una ventina di kamikaze come me, i quali, senza essersi arricchiti, finirono nel tritacarne per fedeltà, per difendere l'idea di cui credevano. Oggi, come ieri, i Veltroni, D'Alema e Fassino non hanno titoli per dare lezioni a nessuno sulla questione morale. Parole durissime di questo imprenditore nei confronti del suo ex partito, e, come dire, anche ai livelli alti, perché qui si vede, per esempio, appunto, i rapporti che si aveva con Massimo D'Alema. Qui c'è una foto, ma insomma, la racconta Giovanni Donigaglia, ex padrone della fallita costruttore di Argenta, che era diventata il quarto gruppo di costruzione italiano dopo Impregilo, Astaldi e Condotte, e dunque uno dei grandi puntelli economici di Botteghe Oscure, non è per nulla stupito da ciò che sta succedendo in Campania, in Abruzzo, in Basilicata. Li aspettava al varco, era solo questione di tempo. La superiorità morale del PD non esiste, la sua teoria è lineare, accade oggi, dice Donegaglia, soltanto perché le finanze rosse non sono più nelle mani di uomini tutto d'un pezzo cresciuti alla scuola di partito, pronti ad obbedire, astuti nell'agire, abili nel riscuotere, risoluti nel negare. Gente, tanto per non fare nomi, del calibro di Renato Pollini, Marcello Stefanini, Primo Greganti, Marco Fredda. Con Greganti e Fredda fui ospite del PM Antonio Di Pietro nel carcere di San Vittore, raggio 2B, riservato. Eravamo confinanti di cella, io in mezzo, loro due ai lati. Donigaglia è incensurato e a parte qualche decreto penale per il pagamento di contributi previdenziali da costruttori, arrestato 5 volte, ha subito 37 processi. È diventato imprenditore? Sì, dice, mi sono dovuto ingegnare come amministratore in una ditta di ascensori in Sicilia. E qui c'è tutto il racconto che effetto fa la legge degli scandali di cui è coinvolto il Partito Democratico. Mi stupisce che gli inquisiti siano stati incastrati con le intercettazioni telefoniche. Io parlavo a quattro occhi, per il resto, dal mio punto di vista, niente di nuovo, solo conferme. E qui spiega quello che abbiamo sentito adesso, dice il Partito Democratico, dice appunto questo imprenditore non è diverso da altri. E poi nella linea, dicevo, che ha sempre tenuto il giornale, anche qui c'è un servizio, un documento, un verbale in guai a Veltroni. Gianmarco Chiocci e Massimo Malpica scrivono: la commissione di garanzia del Comune di Roma segnalò irregolarità nella gara di appalto che assegnò la manutenzione stradale a Romeo, ma il parere fu ignorato. Ecco, e poi ancora scenari, 3 sfidanti per il dopo Walter Veltroni, naturalmente. E chi sono? La direzione del PD ha formalmente salvato la poltrona segretaria. Dopo la stroncatura di D'Alema, in campo 3 pretendenti alla successione: Bersani, Chiamparino e Letta. Ecco, vedremo se questi sono, come dire, davvero i 3 candidati alla direzione del Partito Democratico. Ora vorrei brevemente passare all'Unità per segnalarvi, si chiama Ultimo Atto la copertina, anche qui l'Unità non fa la scelta, dice, la mette in prima pagina, Berlusconi al di Bossi la corsa per il Colle, ma Ultimo Atto, il crack della cultura, il governo taglierà nei prossimi mesi il 40% dei fondi, rischiano 150.000 persone, la bancarotta dell'arte, forbici sul teatro, cinema, musica e danza, peggio della crisi dell'Alitalia e della Fiat. Ci sono ben due pagine, c'è una grande foto della Scala, molto bella, l'industria dell'arte è a un passo dal crack, un settore che pesa come 2 ferrovie dello Stato, 3 Fiat, 10 all'Italia, teatro, musica, cinema, danza, ovvero il patrimonio del paese. Si chiama FUS, Fondo Unico dello Spettacolo, dal 1987 è stato ampiamente saccheggiato dal centrodestra. C'è che in Italia non esiste una politica culturale a tutto tondo, così Giulio Tremonti usa direttamente la mannaia. Questo nelle pagine di primo piano del ancora tagli pesanti e 0 sussidi per noi attori, tempi duri, parla Maurizio Ferio, segretario dei sindacati italiani attori, il governo sbandiera aumenti degli ammortizzatori sociali, ma lo spettacolo ne è escluso. Questo vi dicevo sul quotidiano L'Unità. Infine il Messaggero, presidenzialismo, Bossi frena, anche qui toni molto più cauti, e ancora Dillo al Messaggero, è rimasto vedovo le tagliamo la pensione, ma la moglie è viva. E questo leggiamo in uno dei tanti servizi che il Messaggero pubblica nella rubrica Dillo al Messaggero. E infine sarà ascoltata dai PM anche la Iervolino. Nessuno andrà in ferie negli uffici del centro direzionale napoletano, dove la procura continua a lavorare da settimane. Sono previsti nuovi interrogatori, nuove verifiche, perché c'è tra gli indagati chi ha raccontato una versione dei fatti che va accertata. E così è possibile che da qui a qualche giorno i PM decidano di convocare il sindaco in persona, Rosa Russo Iervolino. Il primo cittadino non è stata assolutamente coinvolta nell'inchiesta che ha zoppato la giunta napoletana. Ecco, questa è l'ultima notizia che vi do dalla rassegna stampa. Il mio tempo è scaduto, quindi io vi ringrazio, vi saluto e, come di consueto, vi do appuntamento a domattina.